Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. L'albatro. Talvolta, per distrarsi, l'agente d'equipaggio fa prigioniero un albatro, grande uccello dei mari, mentre segue indolente compagno di viaggio il veliero che scivola sopra gli abissi amari. Povero Baudelaire, stroncato in maniera così miserrima, e anche povero Vannucci che la leggeva, che Vannucci la leggeva e ha fatto una fine non certo delle migliori. Ma, mi fa pensare, mi fa riflettere l'idea che si parlava dei gabbiani come di fantastici, quasi dei alati, che solo per una sorta di capriccio i marinai mettevano sulla tolda della nave e ci giocavano, li sbeffeggiavano, li mettevano la pipa in bocca, imitavano il loro camminare sbilenco. Questo mi viene in mente perché oggi in effetti di gabbiani sono piene le nostre città. Sono capitato a Rimini l'altro giorno, che è città di mare, è normale, ma vedere i gabbiani che camminano per le strade, che passeggiano, che guardano le vetrine, che siedono sui tavolini al bar, mi è sembrata una cosa stranissima. Ma ancor più in una città come Roma, che anche Roma, anche se i romani usano andare al mare senza fare il bagno naturalmente, per noi il mare è una ipotesi lontana, è stata una città di gabbiani. Roma una volta era piena di piccioni, talvolta per occorrenze stagionali anche di storni, oggi si vedono soltanto gabbiani. I gabbiani sono mangiati tutto. Il gabbiano, che è tutt'altro che goffo, agli occhi almeno di Baudelaire, ovviamente l'avrà visti soltanto quando andava in barca, perché non credo che a Parigi girassero gabbiani, li considerava come una sorta di abominio della natura vedere i gabbiani che camminano. Ma io vedo gabbiani che passeggiano nel mio terrazzo condominiale, vedo gabbiani che passeggiano sul tetto della mia automobile. Spesso mi sono anch'io prodotto in una sorta di esercizio che è molto praticato ormai in Italia, di riprendere con lo smartphone un gabbiano che fa pezzi un piccione o un grosso ratto, e va a farlo appoggiandosi sopra un'automobile, sul cofano dell'automobile, quasi se come ci fosse stato una sorta di capovolgimento di ruolo, ecco quello che veniva considerato una sorta di angelico nume portatore di sensi sublimi, che veniva paragonato al poeta, che è così goffo in mezzo alla gente comune, perché lui soltanto quando libra nei luoghi eccelsi dà il meglio di sé. Beh, oggi il gabbiano è il nostro compagno quotidiano. Avete fatto caso quanti gabbiani ci sono in giro? Gabbiani ovunque, non si possono più stendere i panni nelle grandi terrazze perché il gabbiano ci va sopra, e la cacca di un gabbiano non è quella di un piccione, il rapporto è 10-1, è una cosa devastante. Il gabbiano fa paura, il gabbiano ha un grosso becco, il gabbiano è imponente, il gabbiano quando apre le ali è qualcosa che ci riempie, ci spaventa, invece il piccione facevi show e se ne andava. Vedere un gabbiano in piedi sul tavolino di un bar lungo il marciapiede di una via di una città d'arte fa una certa impressione. Non che mi stiano antipatici i gabbiani, fa parte della grande ruota della vita, ma però oggi dobbiamo cominciare a capire che anche l'idea sublime del poeta paragonabile al gabbiano deve essere un po' ridimensionata. Oggi il gabbiano è uno di noi. 800 24 00 24, animali singolari che stanno ripopolando le nostre città, e in particolare il gabbiano, che è diventato protagonista di una sorta di cinematografia amatoriale. Il web pullula di video splatter in cui ci sono gabbiani che fanno a pezzi topi, piccioni, storni. Insomma, il gabbiano depezzatore è diventato il protagonista dei nostri brividi quotidiani. Devo stendermi le lenzuola con la biancheria, naturalmente. E a un certo punto mi vedo tre gabbiani proprio che mi aggredivano, con le zampe davanti, col becco. E ho dovuto chiudere subito e portarmi la roba dentro, perché sennò mi aggrediva. Mia figlia addirittura è venuta anche con la scopa. Aggredivano la scopa e aggredivano a lei. Rina Casti da un paio di giorni è ostaggio di tre gabbiani che, dopo aver fatto il nido sul tetto della casa della donna in via Giardini a Cagliari, impediscono alla signora di stendere i panni. La donna ha così avvertito i vigili del fuoco che hanno interessato della vicenda anche il corpo forestale. Spesso capita che due gabbiani vadano in giro per cercare del cibo e il più piccolo rimanga a guardia del nido, talvolta nel minino delle cornacche. Ma Rina Casti ha paura di uscire in terrazzo. Non riesco a stendere, ho dovuto stendermi la roba dentro nello stenditoio, perché non riesco, perché aggrediscono. La donna abita da decenni in via Giardini. In 40 anni che abito qui non mi è mai capitato. Questa signora è diventata una protagonista, è una signora che racconta, sentite il pathos di questo servizio, quasi una sorta di apparizione orrifica, il gabbiano che le impedisce di stendere i panni, sembra quasi una parodia, ma in realtà è un vero telegiornale, e tanta è stata la sua onomatopea del mezzo del gabbiano, diventata famosa, che addirittura hanno fatto una versione remix. Proprio che mi aggredivano. Con le zampe davanti, col becco wow, col becco wow, col becco wow, col becco wow, col becco wow, col becco wow, col becco wow, col becco wow, becco wow, becco wow, becco wow, becco wow, becco wow, becco wow, becco wow, becco wow. Francesca Manzia, buongiorno. Buongiorno. Il becco wuh wuh della signora di Cagliari è diventato un cult in rete, non riesco ad ascoltarlo senza ridere perché l'ho visto molte volte, una povera normale signora che se la prende con i gabbiani, questi sono i reportage di provincia, che il becco wuh wuh di questo gabbiano. Ecco, ricordo che Francesca Manzia, la responsabile centro recupero fauna selvatica della LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli di Roma, è vero che è un po' cambiata, diciamo, il colpo d'occhio della città di Roma negli ultimi anni? Sì, sicuramente è cambiata ovviamente la fauna che l'abita, ma in realtà non sono cambiate le abitudini degli animali, i gabbiani sono sempre gli stessi, sono sempre stati gli stessi. Siamo noi che abbiamo modificato a tal punto il territorio da renderlo abitabile e ospitabile a loro. Quindi in realtà non è il gabbiano che ha cambiato le sue abitudini, siamo noi che abbiamo reso il territorio adatto ad un animale opportunista e adattabile come il gabbiano. Devo dire, vedere i gabbiani passeggiare tranquillamente per le vie della città, io che ho rimasto al ricordo del gabbiano che soltanto per un gesto violento e contro natura, considerato così da Baudelaire, veniva messo a camminare, fa capire che sono animali con un grado di adattabilità molto alto. Esatto, sì. Loro praticamente in un ambiente, le prime volte che ci stanno, hanno paura un po' di tutto. Poi quando si abituano e capiscono chi siamo noi, cosa sono le macchine, quindi tutti gli elementi che fanno parte della città, poi dopo non ne hanno più paura perché non ne hanno motivo. Quindi, ma perché vanno sempre a mangiarsi il piccione o il topo sopra il tettuccio di una macchina, così sopraelevati? Secondo c'è una versione. È come un leone che si va a mangiare una gazzella su un albero, cioè per loro è l'ambiente. È il loro e fanno quello che farebbero in tutti gli altri ambienti, cioè prendono la preda e se la mangiano. Chi ne ha fatto le spese, diciamo, dell'invasione dei gabbiani? Adesso mi stanno scrivendo, adesso anche a Torino arrivano i gabbiani, cioè la città di Torino, che non è proprio vicinissima al mare, ci sono i gabbiani che camminano e passeggiano per la città. Sì, il fatto che siano molto confidenti dipende moltissimo dalle persone che gli danno da mangiare. Cioè ci sono veramente tante, ma tante persone che offrono cibo anche i turisti. Qui a Roma, se andate nelle zone quelle del Colosseo o comunque quelle turistiche, vedete che all'ora di pranzo ci sono tantissimi turisti che danno il mezzo panino, danno il prosciutto, cioè danno tutte queste cose da mangiare. Il gabbiano opportunista lo capisce, lo sa e a quel punto chiede. Come il traghetto per la Sardegna o per la Grecia, esatto, sanno i gabbiani, esatto. Sono i turisti, in quell'ora in cui stanno fuori sul ponte c'è la scia di gabbiani dietro e tutti danno da mangiare ai gabbiani. Per questo noi diciamo che non bisogna dar da mangiare agli animali selvatici, proprio perché poi li abituiamo al fatto che noi non siamo dei pericoli e loro poi prendono, diciamo che noi gli abbiamo dato un dito e loro sono presi tutto il braccio, perché? Perché comunque si sono abituati e sanno che noi non siamo dei pericoli, quindi ora non scappano più. Ecco, mi stanno arrivando segnalazioni di gabbiani, rapporti con gabbiani, conoscenza con gabbiani, di osservazione di gabbiani, terrore da gabbiani da tutta Italia. Renato, buongiorno. Buongiorno. Senta, io penso che la colpa primaria di questa invasione di gabbiani siano le discariche. Le discariche a cielo aperto che pian pianino hanno fatto addentrare i gabbiani in modo sconsiderato e quindi vanno a mangiare in queste immense praterie per loro è il loro obiettivo. Adesso primario, sentiamo poi Francesca Manzia se le risponde. Le discariche a cielo aperto attirano i gabbiani, è corretto Francesca Manzia? Ma gli spazzini, quindi sì. È ovvio che la discarica per loro è un enorme banchetto di cui approfittare, ma non solo le discariche. Qui a Roma, soprattutto nel centro storico, siccome non ci sono i cassonetti per motivi di sicurezza, i ristoranti mettono i sacchi, certo, sulla strada e quindi questi sacchi loro, i gabbiani, hanno imparato che dentro c'è da mangiare, quindi rompono i sacchi, buttano tutto per terra e mangiano. Quindi è ovviamente... È vero, è singolare vedere i vicoletti di Trastevere con dei gabbiani che con l'apertura all'aria li occupano tutti, che infilano col becco dentro i sacchetti davanti ai ristoranti, è verissimo. Sì. Quindi purtroppo diciamo che siamo noi che li attiriamo, se un animale gli si dà da mangiare poi non possiamo prenderlo. Ecco, io volevo sentire gli ascoltatori se qualcuno che ha rilevato o ripreso questi episodi in cui i gabbiani si producono nei momenti della caccia, non sempre a loro va di andare a razzolare nella spazzatura umana, e le città dove ci sono tanti gabbiani vuol dire c'è tanta spazzatura in giro non messa negli appositi contenitori, e molte volte vanno a caccia soprattutto, sì, perlomeno la città di Roma, di ratti e di piccioni e di ratti. Sì, in realtà guardiamo le cose dal punto di vista naturale, io vi dico che il gabbiano ha fatto un favore al piccione. Questo perché lo dico? Perché comunque il piccione prima qui a Roma, e comunque anche in altre città, era un po' l'animale che spadroneggiava, quindi non aveva il nemico naturale e quindi si riproduceva a dismisura e andava avanti anche gli esemplari più deboli. Per questo noi, che siamo un po' il punto di riferimento per tutti gli animali selvatici, ricordavamo molti piccioni con malformazioni e con tantissime malattie. Da quando ci sono i gabbiani che fanno la selezione naturale, quindi non è che il piccione è sparito, soltanto il piccione si è rafforzato perché sono andati avanti gli esemplari più forti e noi ricoveriamo molti meno esemplari malformati e molti meno esemplari con problemi di malattie. Quindi gli hanno dato una sterminatina, però in effetti quelli che rimangono, sì, per un equilibrio naturale, esatto, stanno meglio. Cioè, guardiamola un po' da un altro punto di vista. La selezione naturale serve agli animali, serve assolutamente, perché ovviamente è un equilibrio che loro si creano e sappiamo benissimo che in natura l'esemplare più forte è quello che va avanti e quello che fa progredire la specie. Allora Francesca Manzia, ci fermiamo solo un istante per dare le informazioni del traffico, ma vedo già ci sono tante telefonate di segnalazioni di gabbiani, e poi lei ci dirà in effetti quando arriverà il prossimo sterminatore, quello che si occuperà dei gabbiani, e cosa prevede che sarà, quale enorme uccello entrerà nelle nostre città per fare fuori i gabbiani e selezionarli, aiutare anche loro mangiandoseli e facendoli a pezzi. Melog, cronache meridiane. Proprio che mi aggredivano con le zampe davanti, col becco. Questo è il becco uvu remix della signora di Cagliari che si lamenta dei gabbiani che gli sporcano la biancheria. Stiamo constatando che i gabbiani si sono impadroniti di molte città italiane. Rientra in un normale avvicendamento di animali urbani, però questo comporta una nostra osservazione di animali che non eravamo abituati perlomeno a vedere, a valutare nelle nostre città. Angela, buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Roma ma sono salernitana. Allora, volevo dire, a parte il romantico gabbiano Jonathan che io adoro da quando ero ragazzina, sì, adesso palle. Ho 64 anni, ecco, ma non sono d'accordo con niente o quasi di quello che ho sentito finora. Vediamo, questo atteggiamento buonista, tipico. Ma buonista anche con i gabbiani, buonista perché quello è l'animale più robusto, mangia il più, allora a Roma benissimo, mica buonista, è vero, no signora, non è un'ipotesi, è vero, ma non va giustificato, non va spiegato, non va, noi qui siamo invasi da topi, corvi, cornacchie, gabbiani, di tutto e di più, e non perché ci sono le discariche, perché la città è in totale degrado, quindi è chiaro che se i cassonetti traboccano e c'è l'immondizia a terra, i rom ci smucciano. Ma chi lo nega questo? Ma chi l'ha negato? Ecco. Questo non l'abbiamo mica negato. Quindi, No, no, no, no, io ho sentito l'ultimo intervento, mi sembrava molto, molto morbido. Ma no, scusi, no, signora, no, no. Nera perché pago le tasse e non intendo vivere in questo momento. Non si avveleni con i gabbiani, abbiamo mi semplicemente scusi. Detto. Che no, fatto... no, ma fossero solo i gabbiani, poi. Sì, ma le altre cose sono problemi suoi in questo momento, non... noi parliamo di gabbiani oggi. Un attimo solo, sì. Volevo dire una cosa però. Sì. Questi gabbiani, piccioni e quant'altro, passeggiano anche nei bar, certo. Nei ristoranti, quindi non è solo in mezzo. Infilano il loro becco nel contenitore delle noccioline e degli aperitivi. Dappertutto vanno, certo. Dappertutto, e nessuno li caccia, fra parentesi, perché ai romani piace tanto stare nella sporcizia, a quanto pare. Poi volevo raccontare un piccolo episodio. Io sì. Mi sono dovuta blindare una terrazza di 30 metri quadri, prima casa con mutuo, un momento. Sì, vabbè, mica se giustificare, gatti, potrebbe averla anche gatti, avuta dal suo amante, sono problemi suoi, non ci interessa a noi. Ecco, no, volevo dire, io ho i gatti, più di una volta ho salvato uno dei gatti dall'attacco perché l'ho visto proprio arrivare. Capisco adesso. Scusi, ecco, signor Angelo, faccia parlare. No, capisco la sua rabbia. Lei, essendo una sana gattara, ha paura che i gabbiani li mangino i gatti, questo tanto per essere, no? E soprattutto non mi va di vivere in queste condizioni in una cosiddetta capitale. E quindi il gabbiano ha aggredito il gattino il gabbiano? No, se lo stava acchiappando, non il gabbiano, non è solo il gabbiano, questa era una cornacchia o una di queste, capito? Noi siamo in base, che magari fosse solo il gabbiano, io sono salernitana, nacqui in città di mare, quindi al limite anche essere simpatico, appunto. Vabbè, abbiamo capito. Francesca Manzia, ricordo, responsabile centro recupero fauna selvatica della Lipu di Roma. Questa signora è arrabbiata, ma il gabbiano si può mangiare un gatto? Può essere? Sì. Allora, a meno che il gatto non sia appena nato, il gabbiano non può attaccare e mangiarsi un gatto, perché il gabbiano pesa soltanto 1 chilo e minimo un gatto adulto ne pesa 3-4. E poi quelli delle gattare romani sono belli grassi, castrati. Quindi, quello che può fare è sicuramente spaventare il gatto e fare delle picchiate verso il gatto, proprio perché siccome il gatto è un predatore come lui e magari sta vicino al suo piccolo, e allora a quel punto ovviamente come qualsiasi genitore spaventa l'eventuale pericolo. Si contendono i topi, si contendono alla fine. Sì, si contendono anche i topi. In quel caso penso nel terrazzo condominiale si contiene il Kit Kat che la signora mette lì per i gattini. Sicuramente, perché poi parliamo sicuramente della sporcizia, delle discariche e tutte queste cose, però parliamo anche di chi lascia il cibo dei cani e dei gatti nei giardini o nei terrazzi. Quello è proprio una manna il dal cielo. Il tipico piattino con lo spaghetto ammuffito della gattara lasciato per strada. Che un po' tutti dovremmo, cioè è vero che Roma sarà anche gestita male, questo non lo neghiamo, però un po' tutti dovremmo fare la parte nostra. Diciamo che l'abbandono del sacchetto dell'umido, visto che c'è la differenziata per strada, è un richiamo per il gabbiano. Dar da mangiare agli animali sul balcone, ai piccioni, dar da mangiare ai gabbiani, mettere il cibo ai gatti in strada senza controllare, cioè sono tutte cose che ognuno di noi deve fare per rendere la città più vivibile. Senta, visto la citata la signora, fa gabbiano e le cornacchione, chi vince? La cornacchia è molto più piccola, diciamo che arriva a un mezzo chilo di peso, 500 grammi, sì e no. Però diciamo che è più cattiva, nel senso che è più coraggiosa. La cornacchia va contro anche animali molto molto più grandi di lei per proteggere il gruppo. Quindi tra gabbiano e cornacchie si vedono spesso delle lotte furibonde. Ecco, la previsione che le avevo chiesto prima, chi sarà lo sterminatore dei gabbiani? Cosa arriverà dopo i gabbiani? Allora, non arriverà nessuna arpia. Il falco, qualcuno mi dice i falchi, stanno arrivando i falchi. No, in tutti gli ambienti noi abbiamo l'animale che è all'apice della catena alimentare, quindi nessuno che mangia lui. In realtà la sua sopravvivenza dipende dalla disponibilità di cibo. Quindi finché c'è disponibilità di cibo, il predatore si riproduce. Quando la disponibilità di cibo non ci sarà più, il predatore finirà ovviamente la sua crescita e si equilibrerà a seconda di quella che è la disponibilità. Il piccione è aumentato così di numero perché la disponibilità di cibo per lui era ampissima. Cioè non c'era problema, era veramente una distesa a Roma di cibo per loro, mentre invece il gabbiano, che è un predatore comunque, ha disponibilità di cibo molto più limitata, quindi una volta che si limita questo, si limiterà anche il numero dei gabbiani. Ma i gabbiani che stanno a Roma non hanno più nessuna voglia di tornarsene verso Fiumicino, verso Ostia, ormai stanno qua, stanno bene, non sentono il richiamo del mare. Ma loro ci vanno, i gabbiani che stanno a Roma non rimangono a Roma, fanno anche 40 km al giorno avanti e indietro per andare a prendere il cibo dove sanno che ci sta. Quindi non solo Roma, i gabbiani di Roma si spostano durante il giorno, vanno a mangiare. Ma quelli di Torino fanno... dove vanno? Perché mi stanno dicendo gabbiani a Torino. Quelli di Torino rimangono a Torino, perché non è che il mare è proprio vicinissimo. No, no, ma no, non parlo soltanto del mare, io parlo delle, anche delle discariche a cielo aperto, parlo di qualsiasi bacino dove loro prendono cibo, che può essere un fiume, può essere un qualsiasi cosa. Loro sanno che lì c'è cibo, quindi fanno questo percorso e poi ritornano a Roma, perché comunque cioè quelli di Roma tornano a Roma, quelli di Torino tornano a Torino, perché lì è il loro punto dove sentiamo visitano, Francesco. Francesco, buongiorno. Buongiorno, volevo segnalare che in molti fiumi del nord Italia, la mia esperienza diretta, ho visto negli ultimi 10 anni apparire i gabbiani, cosa che prima non avevo mai visto. E tra l'altro è una popolazione di gabbiani che sta incrementandosi notevolmente e trascorrono tutta la giornata appollaiati sugli alberi lungo le rive del fiume, probabilmente con l'intento di pescare in acqua i pesci o i topi lungo le rive del fiume. Chiaramente aumentando la popolazione sono aumentate anche le deiezioni, ci sono ormai degli accumuli di guano impressionanti sui bordi dei fiumi italiani. Guano di gabbiano, ma anche al Tevere non si scherza. L'ultima cosa, Francesca Manzia, mi domandano l'origine di quei pappagalli verdi tropicali che invadono molte ville romane. Villa Cilimontana è piena di pappagalli verdi, brasiliani mi pare siano, non lo so. Sì, la garbatella pure. Sono due specie, una è una specie sudamericana, centroamericana, il parrocchetto monaco, e l'altra invece è una specie africana asiatica. E come sono arrivati? Come sono arrivati qui? È sempre colpa nostra, nostra nel senso dell'essere umano. Sono animali anche loro molto adattabili, probabilmente c'è stato un rilascio di un grandissimo numero di animali per problemi probabilmente di importazione. Ah, illegale, erano uccelli illegali, se ne sono liberati. Esatto, rilasciati. In questi casi succede che il 90% muore, perché non si sa adattare, mentre quel 10% che riesce a capire quali sono i predatori e cosa deve mangiare sopravvive e colonizza. Grazie Francesca Manzia, ci ha dato ottime informazioni sulla presenza dei gabbiani annessi e connessi nelle città italiane. Alla prossima!